GR Europa. Il Consiglio ha riconosciuto il ruolo del Parlamento europeo e fatto un'offerta da negoziare. Il Parlamento ora inizia le sue valutazioni, le sue discussioni. Così il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha valutato con un messaggio l'accordo raggiunto dai leader venerdì nel vertice sul bilancio pluriennale 2014-2020. Ora dunque la battaglia si sposta al Parlamento europeo, che deve approvare il bilancio entro il 31 dicembre di quest'anno. Cristina Carpinelli ha sentito Roberto Gualtieri, eurodeputato del PD. Il mio è un giudizio negativo, perché si tratta di un accordo che riduce per la prima volta il bilancio dell'Unione Europea e non introduce delle modifiche che come Parlamento ritenevamo indispensabili. Quindi quali sono, diciamo, le vostre azioni politiche che metterete in campo? È molto probabile che il Parlamento nella sua prossima sessione presenterà una risoluzione in cui chiederà delle modifiche, e sulla base della risposta a questa nostra richiesta valuteremo come votare. A oggi è molto difficile che il Parlamento dia il suo consenso a questo quadro finanziario, ma sicuramente l'attuale, pur con eccezioni, diciamo così, il quadro prevalente della leadership europea attuale, sia a livello delle istituzioni europee, Consiglio europeo, Commissione, sia a livello degli Stati membri, non vede figure con la forza, la capacità di visione, la capacità di guardare avanti e non solo all'immediato, che in passato hanno consentito al processo di integrazione di fare dei passi avanti. Però oggi abbiamo un Parlamento determinato invece ad essere non solo una somma di parlamentari nazionali, ma un organismo che rappresenta i cittadini dell'Unione Europea nel suo complesso, e che quindi ha il dovere anche di guardare al futuro e quindi anche di avere il coraggio di opporsi a un cattivo bilancio. E sarebbe la prima volta che questo succede? Sì. Monti esibisce soddisfazione ma sbaglia, secondo il leader di SEL Nichi Vendola, a proposito del bilancio pluriennale naturalmente. I tagli decisi per Vendola rappresentano addirittura il suicidio dell'Europa. Banche, scandali, controlli. Ne abbiamo parlato con il commissario UE al mercato interno, Michel Barnier, e abbiamo trasmesso la prima parte dell'intervista venerdì, la seconda parte dell'intervista realizzata da Laura Bettini. Con la proposta che farò quest'estate, che sarà una proposta che vuole separare in tutte le banche la gestione del rischio fra le attività a titolo commerciale per i risparmiatori, le imprese, e dall'altra parte le attività sui mercati finanziari, laddove si parla di investimenti e spesso di speculazione. E dicevo, su tutti questi argomenti arriveremo per tutte le banche europee ad avere più trasparenza, ad avere più rigore, ad avere una migliore vigilanza o supervisione, e quindi una protezione migliore per i clienti di queste banche, che sono i risparmiatori e i contribuenti. Ecco quello che penso. Più controlli dunque in vista, così Michel Barnier, che lo ricordo è il commissario dell'Unione Europea al mercato interno. Infine parliamo di cinema. Il cinema in Italia risente della crisi economica e per il secondo anno consecutivo perde spettatori. Nel 2012, come nell'anno precedente, sono diminuiti di 11 milioni. Tra i quattro grandi mercati cinematografici europei, quello italiano registra le perdite maggiori anche sul fronte della quota dei film nazionali. La crisi ha invece solo sfiorato gli altri tre paesi europei, Gran Bretagna, Germania e Francia, che assieme all'Italia costituiscono i due terzi della quota di mercato UE. E con questo abbiamo concluso. Un saluto da Gigi Donelli. GR Europa torna domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.